scusate, prova, scusate un po' di attenzione, un po' di silenzio. Certo che leggere in questa confusione, non ho mai capito che vengono a fare alle presentazioni dei libri, solamente per il buffet. Ma vaffanculo. Vabbè, io vado a casa, eh.